Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Direttore, mi preme sottoporle una riflessione, seppur sterile. Mi avvicino pericolosamente alla maturità, senza averne piena coscienza e senza sentirmi padrone incontrastato e sublime della mia esistenza. Non tanto degli accadimenti esterni, ma delle piccole rivoluzioni che ci scuotono giornalmente. Sarebbe bello poter pensare ad una vaga serenità, quella che si costruisce senza spese, con gli amici, i figli, l'amore, quei dubbi che ci danno assuefazione e speranza. Ho paura che l'Italia questo l'abbia ormai perso. Che non è tutto, ma, mi creda, è tanto. Ed è un giovane a raccontarglielo, ne tenga conto. Abbiamo perso le nostre osterie di provincia, dove i nostri nonni andavano a giocare a carte. Abbiamo perso il fascino dell'attesa e lo stimolo impagabile della speranza. Stiamo perdendo noi stessi. L'Italia degli autovelox e dei videopoker, l'Italia degli intrighi sessuali, delle collaborazioni minime e dei salari bassi, non renderà giustizia alla bellezza che ci portiamo dentro da secoli, che ci ha fatto costruire colossei e grandi industrie, violentare montagne e coltivare orticelli. Direttore, compirò tra pochi giorni 26 anni e mi sento schiacciato dal mio quotidiano. Vivo in casa. Per qualcuno sono un bamboccione, eppure faccio due lavori. Ho una piccola azienda che mi molesta il sonno e scrivo su una rivista la mia fuga mensile. Ho progetti, tanti, sogni, qualcuno, e scadenze giornaliere. Ho tre dipendenti, affari altalenanti e la consapevolezza che non sto mettendo le fondamenta per la costruzione del mio futuro. Non sono pazzo, sono realista. Vorrei che i nostri politici, la nostra classe dirigente, sapesse che c'è tutto un mondo fuori che li sta guardando e giudicando. Credo che stiamo perdendo di vista qualcosa, l'importanza e l'eternità della bellezza. Direttore, le capita mai di guardarsi intorno e di pensare realmente al fatto che ci stiamo inesorabilmente imbruttendo? Lo vede il degrado che ci sta assalendo, inesorabile e impunito? Non mi fraintenda, non parlo dei triti e tristi problemi sociali. Parlo della bruttezza in sé, dei nostri marciapiedi sporchi, dei nostri figli omologati, delle nostre automobili e delle nostre case, dei nostri parchi, di noi stessi. Ha mai visto le nonne di oggi giocarsi la pensione alle macchinette? I nostri figli minacciarsi per un telefonino? Insultarci per un parcheggio? Ha mai visto le spazzature ricolme? È mai entrato in un centro commerciale la domenica pomeriggio? La guarda la televisione? Direttore, mi preme informarla che c'è una buona parte della popolazione che tutto questo lo trova normale. Forse sarebbe opportuno che qualcuno si prendesse la responsabilità di urlare al nostro piccolo mondo che siamo orribili. Che la sessualità dei nostri politici, se ancora hanno il diritto di essere nominati tali, tutto sommato non ci molesta. Credo che la crisi che ci sta investendo potrà finire, ma non sarà quando potremo comprare un'auto nuova o ricominciare a viziare i nostri figli, ma il giorno in cui torneremo a interessarci se il tempo fuori è sereno o meno. Siamo brutti, direttore, visceralmente. La prego di rifletterci. Federico. Caro Federico, è vero, spesso guardandosi in giro si possono scoprire tanti angoli, tante prospettive in cui compare una brutta Italia. Quell'Italia delle case palesemente abusive, dei rifiuti lasciati per strada, del comportamento sguaiato e cafone di chi viaggia sui mezzi pubblici. E non solo sulle linee di periferia, ma anche nella prima classe della Freccia Rossa. Ma non c'è solo questa Italia, c'è anche la sua, la nostra Italia, dove c'è l'impegno, la professionalità, la passione, il merito, dove c'è una silenziosa solidarietà che non ambisce a diventare potere politico. È vero, abbiamo il brutto vizio di generalizzare quello che non va, e invece dovremmo generalizzare il bene. Non dimenticare, per esempio, che a fianco di pochi abominevoli e criminali casi di pedofilia da isolare e condannare, vi è una grandissima maggioranza di sacerdoti che è spiritualmente e materialmente a fianco non solo dei poveri e degli emarginati, ma anche dei giovani e delle famiglie. E allora riabituiamoci al bello, torniamo a respirare il vento della primavera, riscopriamo il cielo stellato e soprattutto riabituiamoci a sorridere a chi ci incontra. Su Emergency in Afghanistan è bene dire alcune cose. L'ospedale di Emergency si trova a Lashkargah, regione sino a qualche mese fa sotto il controllo talebano. Qui venivano curati con amore, passione e professionalità cittadini, anziani, giovani, donne e bambini. Venivano curati militanti civili, ovvero combattenti senza divise e documenti provenienti da tutta la valle dell'Helmand e persino da 500-600 chilometri di distanza. Gli uomini di Emergency ci dicono che la loro è una missione umanitaria che non può discriminare civili o militanti, ma essi sapevano di curare insurgents, anche perché all'ospedale di Lashkargah giungevano con appositi convogli in assetto di guerra militanti talebani gravi, ovvero coloro che non potevano essere trasportati in Pakistan e tantomeno potevano essere curati nei numerosi piccoli ospedali da campo. Si dice anche dell'esistenza di personale sanitario volante talebano e non, che orbita intorno a Emergency, che assiste e segue i militanti durante le operazioni militari contro le forze di occupazione. Emergency non ha alcun rapporto diretto o organico con questi operatori. Sono loro che approfittano della neutralità di Emergency per assistere e curare i loro militanti. Pertanto Emergency era un vero e proprio punto di riferimento non solo per la popolazione civile, ma anche per i combattenti. L'operazione Mushtarak ha fatto saltare tutto. I talebani non controllano più la zona e soprattutto non hanno più un ospedale dove poter entrare liberamente, farsi curare e ritornare indisturbati da dove erano venuti. Il problema dei feriti è per i talebani un problema molto serio, perché sono costretti ad abbandonare i loro feriti sul campo, ovvero nelle mani della polizia afghana, che in tempo reale strappa loro utilissime informazioni militari. Ecco perché Gino Strada accusa: non ci fanno soccorrere i feriti. Persone bene informate ritengono che il complotto vi sia stato, che era una cosa seria e diabolica, ma che non avrebbe coinvolto l'ospedale di Emergency in alcun modo. I talebani hanno grande considerazione di Emergency e hanno inizialmente usato l'ospedale come base logistica, ma qualcosa è andato storto. Alcuni loro uomini, ormai da tempo sotto osservazione dell'intelligence afghana, tenevano normali contatti quotidiani di lavoro con il personale interno di Emergency. I nostri operatori, del tutto estranei alla vicenda, non potevano non essere sentiti e interrogati su precisi indizi raccolti dall'intelligence afghana. Io sono convinto che appena i riscontri di rito saranno terminati, i nostri connazionali torneranno a casa. Il missionario rosso non ha ancora capito molto della posta in gioco. Deve ancora imparare a leggere, per esempio, che si scrive Afghanistan, ma si legge Pakistan. Renzo. Riguardo ai volontari di Emergency arrestati in Afghanistan, Gino Strada parla di cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ma quale serie A e serie B? Ce lo ricordiamo il rapimento delle due Simone. Qualsiasi mezzo impiegato per le trattative, pathos mediatico da groppo alla gola ogni sera davanti al TG, fiaccolate tutta l'Italia con gli occhi lucidi e il rosario penzolante fra le dita. Poi furono liberate. Feste, onori, interviste e loro, da buone sinistre, neppure un grazie a chi si era prodigato per allungare di qualche anno la loro vita. Quindi non farnetichiamo, per favore. Ezio. Nel campo della satira, la vignetta di Staino rientra linguisticamente nelle categorie delle freddure. Le freddure non vanno prese sul personale. Possono essere affilate o avere un effetto glaciale. Non a caso si chiamano freddure. Non ti fanno sbellicare dal ridere. E a volte nemmeno ti strappano un sorriso. Senti solo che ti si muove qualche rotella nel cervello. Ed è difficile che si possano definire offensive. Le giudicano così solo quelli che sono dotati di un'eccessiva suscettibilità. Alessandro. Una parolina su Staino. Non credo abbia offeso, dileggiato o nuociuto al nostro governo, ma si è trattato sicuramente di un'offesa alla storia e alle tragedie del popolo polacco. Si può satireggiare anche con forza, secondo me, ma usando materiale che non appartenga alla sofferenza altrui. Insomma, l'unità, se crede, può dire quel che vuole, ma non come vuole. Per fare satira sarebbe preferibile evitare di usare, che so, l'olocausto, il terremoto o le disgrazie degli altri. Filippo, da Capri. Sono uno storico estimatore delle vignette di Bobo. Malgrado io non appoggi il governo, ritengo che questa vignetta incriminata sia di cattivo gusto. Le situazioni e le circostanze devono essere cambiate solo con gli strumenti della democrazia. E anche la satira dovrebbe prendere atto di ciò. Altrimenti la pura competizione politica verrebbe messa da parte per far posto al fanatismo. La vignetta non l'ho trovata né sagace né divertente, né capace di lasciare spazio a riflessioni. Alessandro. Questa è